La nostra posizione è semplice, nel senso che innanzitutto i contratti concessionari sono regolati da norme molto specifiche e quindi, poiché noi sappiamo che la grande attenzione anche dell'opinione pubblica giustamente si è iniziata a vedere dopo i drammatici fatti di Genova, la prima cosa da individuare è le eventuali responsabilità, tanto in casa ASPI quanto in casa MIT, perché ovviamente ci sono gli obblighi del controllato e ci sono ovviamente gli oneri del controllore. Una riforma del modello concessionario può essere anche all'ordine del giorno, se intendiamo una riforma della legge quadro, che vuol dire poteri di controllo all'autorità dei trasporti, vuol dire normare le tariffe e le gare agli investimenti in manutenzione e nuove opere, ma vuol dire anche, per esempio, in caso di ritiro della concessione, attrezzare l'ANAS, perché oggi noi sappiamo che il regime concessionario è stato dato anni fa proprio perché l'ANAS non aveva più né le competenze né le condizioni finanziarie per tenerlo. Quindi noi non siamo ideologicamente schierati a favore di una o dell'altra soluzione. Siamo per andare a vedere le carte. Una cosa però deve essere chiara: non può essere che da una parte la famiglia Benetton che vuole difendere maxi profitti o dall'altra una componente politica in permanente campagna elettorale prenda in ostaggio gli oltre 8.000 lavoratori tra Autostrade per l'Italia, Pavimentale Spea, perché questi lavoratori ovviamente sono le vittime degli errori del management o di eventuali scelte politiche. Quindi noi partiamo dal fatto che ci sono 8.000 lavoratori, operai e tecnici, che stanno garantendo la manutenzione delle strade, che non c'entrano nulla coi manager e quei livelli occupazionali vanno garantiti a prescindere. Quindi sì, anche se in un futuro la gestione dovesse tornare interamente pubblica, va garantita una salvaguardia occupazionale. Va garantita la salvaguardia occupazionale e i livelli di investimento, perché nel regime concessionario la concessione in tutta Europa e anche in Italia, pur con i limiti delle norme che ho accennato prima, si basa su due scambi. Uno è lo scambio: ti do un tratto di strada e tu mi devi garantire la manutenzione, da qui l'assunzione di ingegneri, di operai, di impiegati, ma dall'altra una parte degli entrate da tariffa va in investimenti, perché sono due ASPI, non solo in questo momento ha 8.000 lavoratori che vanno salvaguardati, ma anche 5.000 miliardi di investimenti dal Terzo Valico alla Gronda ad altre grandi opere che vanno garantiti. Quindi noi diciamo si salvaguardino i livelli occupazionali e si salvaguardino anche gli investimenti, perché poi materialmente dietro uno svincolo in più o dietro il cambio di un guardrail o dietro un manto di catrame idrorepellente ci sono anche investimenti economici che qualcuno deve garantire. Io non vorrei che alla fine ci trovassimo soltanto strade meno manutentate e magari qualche lavoratore in meno, sarebbe un capolavoro. La questione della concessione è emersa dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, però in questi anni abbiamo visto insomma altri crolli, sequestri di viadotti, quindi insomma il bisogno di investimenti, di manutenzione è alto nel nostro paese. Assolutamente, la filea CGIL denunciò purtroppo prima di Genova, ma su questo ci consola poco, il fatto che vi sono circa 1.600 solo tra gallerie e viadotti che avendo più di 50 anni, dopo 50 anni il ferro, il cemento, il calcestruzzo precompresso sono materiali che vanno a decadenza naturale, perché noi abbiamo circa il 60% delle infrastrutture sia viarie che in parte ferroviarie, non parlo dell'alta velocità, parlo di quelle ferroviarie diciamo ordinarie, costruite tra gli anni 70 e gli anni 80. Dopo 40 anni è proprio, come dire, fisiologico il decadimento di questi materiali, tant'è vero che il nostro problema non è soltanto garantire la manutenzione delle strade date in concessione, ma garantire per esempio la manutenzione di tante vie secondarie di viabilità però importante per le merci e le persone, come per esempio tutte le strade delle ex province di cui adesso non si sa più chi è proprio il responsabile materiale della manutenzione. Noi abbiamo 4.000 chilometri, per fare un esempio, di ex strade provinciali che non si sa dopo il superamento delle province banalmente chi è il responsabile di quella strada, ma per quella strada ci passano tutti i giorni milioni di lavoratori e milioni di tonnellate di merci. Quindi per questo noi diciamo, se questa è l'occasione per una rivitalizzazione dell'intera rete infrastrutturale italiana, a partire da quella autostradale, e per piani straordinari di investimenti in manutenzione, potremmo trarre da una drammatica tragedia un'occasione. Se invece non è così, alla fine ci rimarrà la vecchia rete ancora priva di manutenzione e magari perdere gli investimenti. Non sarebbe appunto, ripeto, un grande risultato. Serve un piano straordinario per le manutenzioni. Se di ANAS lo faccia ANAS, se di ASPI lo faccia ASPI, se di un'altra concessionaria o di una rete regionale o comunale lo faccia l'istituzione preposta.